I doni della civiltà. È opinione diffusa che i fatti di sangue avvenuti fin dai tempi dei Sumeri e degli Assiri siano stati soltanto uno stadio malaugurato ma inevitabile del progresso tecnologico e culturale. Logicamente, se i selvaggi, tra virgolette, che esistevano prima delle nostre civiltà più antiche fossero stati pacifici, mancando di una motivazione adeguata, non avrebbero prodotto praticamente alcun valore duraturo. Infatti, come sosterrebbero l'uomo della strada e i teorici del Pentagono, la guerra è stata lo sprone necessario per incentivare ogni progresso tecnologico e di conseguenza culturale. Tuttavia, i dati che stiamo esaminando, insieme a molti altri miti e leggende, ci rivelano la stessa verità degli scavi archeologici. Vale a dire, uno dei segreti meglio conservati della storia è che praticamente tutte le tecnologie sociali e materiali fondamentali per la civiltà sono state sviluppate prima dell'imposizione di una società dominatore. I principi della produzione alimentare e anche la tecnologia della costruzione dei contenitori e dell'abbigliamento erano già conosciuti dai popoli del Neolitico che adoravano la dea. E lo stesso vale per l'uso industriale sempre più sofisticato di risorse naturali come legno, fibre, cuoio e successivamente dei metalli. Analogamente, le nostre principali tecnologie non materiali, come leggi, governo e religione, risalgono a quella che, prendendo a prestito il termine antica Europa di Maria Gimbutas, potremmo chiamare antica società. Il commercio, sia su terra che per mare, è un altro lascito di questa epoca remota e si può dire altrettanto dell'amministrazione, dell'educazione e persino della previsione del futuro. Infatti, le sacerdotesse della dea sono la prima manifestazione di un potere oracolare o profetico. La religione sostiene e perpetua l'organizzazione sociale che riflette. In molti degli antichi testi religiosi pervenutici, è la dea, non una delle divinità maschili all'epoca già dominanti, a venire identificata come colei che dà alla gente i doni della civiltà. I miti, che attribuiscono le nostre maggiori invenzioni materiali e spirituali a una divinità femminile, possono dunque riflettere una loro reale invenzione da parte delle donne. Questa ipotesi risulta quasi inconcepibile secondo il modello prevalente. Esso infatti dipinge la donna come inferiore e subordinata all'uomo non solo intellettualmente, ma, secondo la Bibbia, così sottosviluppata spiritualmente rispetto a lui da essere la causa della nostra caduta nel peccato. Ma nelle società che concettualizzavano il potere supremo dell'universo in una dea venerata come fonte giusta e saggia di tutti i nostri doni materiali e spirituali, le donne avrebbero avuto la tendenza a interiorizzare un'immagine di sé del tutto differente. Con un modello di ruolo così potente, avrebbero potuto ritenere loro diritto e dovere la partecipazione attiva e la direzione dello sviluppo e dello sfruttamento delle tecnologie materiali e spirituali. Avrebbero potuto considerarsi competenti e indipendenti e sicuramente creative e inventive. Ci sono infatti prove sempre più evidenti di una partecipazione e di una guida femminile nello sviluppo e nella amministrazione delle tecnologie materiali e non, su cui in seguito andò a sovrapporsi un ordinamento dominatore. Risalendo fino ai tempi in cui i nostri predecessori primati cominciarono a trasformarsi in esseri umani, gli studiosi stanno iniziando a ricostruire una visione molto più equilibrata della nostra evoluzione, una visione in cui le donne e non solo gli uomini svolgono un ruolo centrale. Secondo il vecchio modello evolutivo basato sull'uomo cacciatore, gli inizi della società umana sono dovuti al vincolo maschile necessario per la caccia. Esso vuole anche che i nostri primi attrezzi fossero sviluppati dagli uomini per uccidere le loro prede e anche per uccidere altri esseri umani nemici o più deboli. Oggi, scienziate come Nancy Tanner, Jane Lancaster, Lila Leibovitz e Adrienne Zillmann hanno proposto un modello evolutivo alternativo. Si tratta dell'ipotesi che la posizione eretta, necessaria per rendere libere le mani, non fosse collegata alla caccia, ma piuttosto al passaggio dal foraggiamento, vale a dire mangiare mentre si cammina, alla raccolta e al trasporto del cibo, in modo che questo potesse essere spartito e immagazzinato. Inoltre lo stimolo a sviluppare il nostro cervello, molto più grande ed efficiente, e a impiegarlo per fabbricare attrezzi ed elaborare e condividere più efficacemente informazioni, non sarebbe derivato da un vincolo tra uomini tenuti a uccidere, ma piuttosto dal legame tra le madri e la loro prole, che è evidentemente indispensabile se si vuole che la razza sopravviva. Secondo questa teoria, i primi manufatti fabbricati dall'essere umano non erano armi. Si trattava invece di contenitori per trasportare il cibo e le creature più piccole e di attrezzi usati dalle madri per ammorbidire gli alimenti vegetali destinati alla loro prole, che per sopravvivere aveva bisogno sia del latte materno che di cibo solido. Questa teoria si concilia meglio con il fatto che i primati, come le tribù più primitive tuttora esistenti, primitive tra virgolette naturalmente, dipendono soprattutto dalla raccolta e non dalla caccia. È anche più conforme alle prove che dimostrano che la carne costituiva solo una piccola parte della dieta degli antichi primati, degli ominidi e dei primi esseri umani. Viene poi ulteriormente confermata dal fatto che nei primati, a differenza degli uccelli e di altre specie, sono tipicamente solo le madri a dividere il cibo con la prole. Tra i primati si può anche osservare lo sviluppo dei primi attrezzi, non per uccidere, ma per raccogliere e lavorare il cibo. E tra gli scimpanzé, i primati più studiati, notiamo che sono le femmine a usare più frequentemente questi attrezzi. Dunque, come scrive la Tanner riguardo al periodo ancora più antico che pose le basi della società antica che abbiamo preso in esame, sembra che il ruolo principale nell'evoluzione della nostra specie sia stato svolto dalla donna raccoglitrice e non dall'uomo cacciatore. I figli e le figlie che avevano madri sufficientemente intelligenti per trovare, raccogliere, premasticare e dividere cibo a sufficienza con loro, avevano un vantaggio selettivo, osserva la Tanner. Tra queste piccole e piccoli che sopravvivevano, i più abili e le più abili a imparare e a migliorare ulteriormente le tecniche della madre e quelle che, come le loro madri, erano disposte a spartire il cibo, avevano a loro volta prole con la maggior probabilità di vivere abbastanza a lungo per riprodursi. È altamente improbabile, prosegue la studiosa, che in questo periodo gli utensili venissero usati per uccidere animali, poiché le prede erano piccole e indifese e potevano essere catturate e uccise con le mani. Inoltre, è molto probabile che fossero le donne con prole a sviluppare la nuova tecnologia di raccolta, non solo gli attrezzi, ma il bipedismo umano, l'uso indipendente di mani e piedi, che è un requisito indispensabile per raccogliere anziché foraggiare. Erano le donne ad avere più bisogno delle mani libere per portare sia il cibo che la prole. È anche più che probabile che le donne abbiano inventato la più fondamentale di tutte le tecnologie, senza la quale la civiltà non si sarebbe potuta evolvere, l'addomesticamento di animali e piante. Infatti, anche se difficilmente se ne parla sui libri e nei corsi dove si impara la storia dell'uomo antico, tra virgolette, oggi molti studiosi sono concordi nell'affermare che le cose probabilmente si svolsero proprio in questo modo. E si notano che nelle attuali società di cacciatori e raccoglitori sono tipicamente le donne e non gli uomini a occuparsi della lavorazione del cibo. Le donne quindi probabilmente devono essere state le prime a piantare semi nel terreno dei loro accampamenti, a domesticare giovani animali, nutrendoli e curandoli come facevano con i propri figli e figlie. Antropologi e antropologhe rivelano anche che nelle economie prevalentemente agricole delle nazioni e delle tribù in via di sviluppo, al contrario di quanto presumono gli studiosi occidentali, la coltivazione del suolo è, fino ad oggi, prevalentemente affidata alle donne. Questa conclusione è ulteriormente confermata dai numerosi miti religiosi antichi che attribuiscono esplicitamente l'invenzione dell'agricoltura alla dea. Per esempio, nei documenti egizi la dea Iside viene spesso menzionata come inventora dell'agricoltura. Nelle tavolette mesopotamiche si loda la dea Ninlil per aver insegnato l'agricoltura alla sua gente. Sia nell'archeologia che nel mito ci sono numerose associazioni implicite tra la dea e l'agricoltura. Coprono un arco di tempo molto vasto che va da Chtal-Hük, dove nei templi della dea venivano fatte offerte in granaglie, al periodo greco classico, dove divinità femminili come Demetra ed Era continuavano a ricevere doni di questo tipo. basandosi su una ricerca approfondita sui miti preistorici, si è concluso che anche la ceramica fu inventata dalle donne. Essa veniva considerata un'arte sacra, associata al culto della dea e allo stesso tempo alle donne in genere. Analogamente, la filatura e la tessitura della stoffa, nella maggior parte delle antiche mitologie, vengono associate alle donne e a divinità femminili, che come le parche greche erano ritenute le tessitrici del destino degli uomini. Anche in Egitto, in Europa e nella mezzaluna fertile si trovano prove che l'associazione della femminilità alla giustizia, alla saggezza e all'intelligenza risale a tempi molto remoti. Maat è la dea egizia della giustizia. Anche dopo l'imposizione del dominio maschile, la dea egizia Iside e quella greca Demetra continuavano a essere considerate legislatrici e sapienti dispensatrici di saggezza virtuosa, di consiglio e di giustizia. Documenti archeologici della città mediorientale di Nimrod, dove veniva adorata Ishtar, ormai trasformata in una divinità della guerra, mostrano che anche allora alcune donne continuavano a servire come giudici e magistrati nei tribunali. Dalle leggende precristiane di Irlanda apprendiamo anche che i Celti adoravano Cariven, dea dell'intelligenza e della conoscenza. Le parche e le muse greche, rispettivamente applicatrici della legge e ispiratrici di ogni sforzo creativo, sono naturalmente di sesso femminile. Altrettanto dicasi dell'immagine di Sofia o Sapienza, assai diffusa fino in epoca cristiana medievale insieme a quella della dea, come Madonna della Mercede. Esistono anche numerose testimonianze che la spiritualità e in particolare la visione spirituale tipica dei saggi veggenti un tempo fosse associata alla donna. Dai documenti archeologici mesopotamici apprendiamo che Ishtar di Babilonia, che successe a Inanna, era ancora conosciuta come signora della visione, colei che dirige l'oracolo, la profetessa di Kua. Le tavolette babilonesi contengono molti riferimenti alle sacerdotesse che davano consigli profetici nei templi di Ishtar, alcuni dei quali sono importanti testimonianze di eventi politici. Da antichi documenti egizi sappiamo che l'immagine di un cobra era il geroglifico che indicava la parola dea e che il cobra era conosciuto come l'occhio, Uzait, un simbolo di veggenza mistica e di saggezza. La dea cobra, nota come Huazit, era la divinità femminile del Basso Egitto, il nord, in epoca predinastica. In seguito le dee Hathor e Maat erano ancora conosciute come l'occhio. L'ureo, un serpente eretto, si trova di frequente sulla fronte dei reali egizi. Inoltre, nella città egizia di Per Uto si trovava un santuario profetico, forse sede di un precedente tempio dedicato alla dea Huazit. I greci chiamavano questa città Buto, nome greco della dea cobra. Anche il celebre tempio oracolare di Delfi si ergeva in un luogo di precedenza dedicato al culto della dea. E anche in epoca greca classica, quando subentrò il culto di Apollo, l'oracolo continuava a parlare per bocca di una donna. Era una sacerdotessa chiamata Pizia, che sedeva su di uno sgabello a tre piedi, attorno al quale stava arrotolato un serpente detto Pitone. Inoltre, leggiamo in Eschilo che in questo tempio, tra tutti il più santo, la dea era venerata come profetessa Primeva. Ciò suggerisce nuovamente che anche in un'epoca tarda come quella della Grecia classica non era ancora stata dimenticata la tradizione, tipica di una società mutuale, di cercare la rivelazione divina e la saggezza profetica tramite le donne. Dagli scritti di Diodoro Siculo del primo secolo a.C. si apprende che ancora in epoca così tarda non solo la giustizia ma anche i metodi di guarigione erano associati alle donne. Durante un viaggio in Egitto, egli scoprì che la dea Iside era ancora venerata non solo come colei che per prima istituì legge e giustizia, ma anche come potente guaritrice. A questo proposito, è indicativo che i serpenti intrecciati noti come caduceo siano tuttora lo stemma della professione medica. La leggenda vuole che questa tradizione derivi dalla identificazione dei serpenti con il dio greco Asclepio, ma si può legittimamente supporre che la connessione tra serpenti e metodi di guarigione derivi da una tradizione molto anteriore, quella dell'associazione del serpente alla dea, che come abbiamo visto riguardava sia la guarigione che la profezia. Persino l'invenzione della scrittura, che per molto tempo si è creduto fosse avvenuta nel 3200 a.C. a Sumer, sembra abbia radici molto precedenti e probabilmente femminili. Nelle tavolette sumere, la dea Nidaba viene descritta come scriba del paradiso sumero, oltre che inventrice delle tavolette d'argilla e dell'arte della scrittura. Nella mitologia indiana, alla dea Sarasvati viene attribuita l'invenzione del primo alfabeto. E ora, basandosi sugli scavi archeologici dell'antica Europa, Maria Gimbutas ha scoperto che i primordi della scrittura schematizzata risalgono al Neolitico. Inoltre, essi non sembrano limitarsi, come a Sumer, a una scrittura commerciale amministrativa destinata a una migliore catalogazione degli accumuli materiali. Piuttosto, il primo utilizzo di questo poderoso attrezzo della comunicazione umana sembra fosse spirituale, una scrittura sacra collegata al culto della dea. I ritrovamenti, probabilmente più conosciuti, che confermano questa recente teoria provengono dal sito europeo di Vinza, una ventina di chilometri a est di Belgrado in Serbia. Come per molti altri siti, quando si scoprì la cultura di Vinza, a causa del suo alto grado di raffinatezza artistica, si ritenne che essa fosse molto più recente di quanto non lo sia in realtà. La teoria, ancora citata in alcune recenti storie dei Balcani, è che fosse una colonia greca. Queste teorie, promulgate prima che l'archeologia disponesse di metodi di datazione scientifica come il radiocarbonio e la dendrocronologia, coincidevano con l'allora prevalente paradigma archeologico secondo il quale negli antichi Balcani non era esistita alcuna cultura indigena avanzata. Ma i dati calibrati con radiocarbonio, che sono stati ottenuti da 8 siti differenti della cultura di Vinza, la fanno risalire a un periodo tra il 5300 e il 4000 a.C. Questi dati, oltre alle prove tecnologiche e archeologiche che la dea era la divinità suprema, collocano nettamente Vinza in un periodo di società mutuale. Fu lì che vennero scoperte le cosiddette tavolette di Tartara e altri segni incisi su statuette o sulla ceramica. Maria Gimbutas racconta che questi ritrovamenti, insieme alle prove di una generale marcata intensificazione della vita spirituale, portarono a un'altra teoria, ancora a dir poco coincidente con il vecchio paradigma archeologico, secondo il quale nei Balcani non esisteva una cultura indigena progredita. Questa teoria sosteneva che la cultura di Vinza proveniva dall'Anatolio, addirittura dalla Mesopotamia, ma oggi si è stabilito che invece è originaria dei Balcani. Quindi se i segni incisi sulle tavolette neolitiche, sulle statuette e su altri oggetti rinvenuti lì e in altri siti antichi europei sono davvero ciò che sembrano, cioè una forma di scrittura lineare, le origini della scrittura, risalendo a molto tempo prima dell'era a modello dominatore, sono molto più antiche di quanto si era sempre creduto. Ci sono senza dubbio sempre più prove a sostegno di questa conclusione. Nel 1980 la professoressa Maria Gimbutas riferiva che attualmente risultano più di 60 siti in cui furono prodotti oggetti con iscrizioni. La maggior parte dei siti sono quelli dei gruppi delle culture di Vinza e Tissa e di quella di Karanovo nella Bulgaria centrale. Si distinguono segni incisi o dipinti anche ad Imini, Cucuteni, Petresti, Lengiel, Butmir e Buc, in Romania e sul vasellame lineare in ceramica. Questi ritrovamenti indicano che ormai non è corretto parlare di una scrittura di Vinza o della placca di Tartara, così come è ormai chiaro che la scrittura era una caratteristica universale della civiltà dell'antica Europa. Inoltre, questa scrittura sembra fosse uno sviluppo della precedente tradizione di utilizzare l'arte come una sorta di codice per comunicare concetti importanti. In tutta l'antica Europa si trovano statuette della dea fortemente stilizzate, su cui sono incisi segni simbolici come greche, zigzag, V, X, spirali, cerchi e linee multiple. Maria Gimbutas scrive che queste immagini costituivano dei mezzi, approvati e compresi da tutti, per comunicare le ipotesi fondamentali del loro tempo sul significato dell'universo. Quando successivamente a questa forma di comunicazione simbolica venne fatto fare un ulteriore passo avanti, si sviluppò quella che probabilmente fu la prima forma di scrittura dell'uomo. Si tratta di ideogrammi in cui i segni simbolici esistenti, già presenti nel Paleolitico e assai diffusi nel Neolitico, vennero modificati con linee, curve e punti. Maria Gimbutas, che sta lavorando alla decifrazione della scrittura dell'antica Europa, ritiene che alcuni di questi ideogrammi acquistarono gradualmente un valore fonetico. La V, scrive, è uno dei segni che si incontrano più di frequente sulle statuette e su altri oggetti di culto. La mia opinione è che venga usata nella scrittura come un valore fonetico derivato dal segno ideogramma. La M, che probabilmente come in Egitto era un ideogramma che significava acqua, deve aver avuto un valore fonetico fin da un'epoca assai remota, non meno del VI millennio a.C. Grazie a uno studio intenso dei simboli e dei segni trovati inizialmente soprattutto nei disegni e poi in misura crescente su ceramica, sigilli, dischi e placche, Maria Gimbutas ha cercato di decifrare i significati per associazione. Per esempio, avanza l'ipotesi che i glifi della V potevano essere stati un modo di rappresentare la dea nella sua epifania di uccello e che gli oggetti marcati a quel modo fossero in origine dedicati al suo culto. Osserva inoltre che quando successivamente i segni vengono disposti in serie, come nel piatto di Gradescica, i grappoli ripetuti di V, oltre che di M, X e Y, avrebbero potuto rappresentare voti, preghiere o assegnazioni di doni alla dea. Maria Gimbutas fa anche notare la innegabile somiglianza tra i caratteri antichi europei e quelli della lineare A, quelli ciprominoici e quelli ciprioti classici. Ciò avvalora fortemente l'ipotesi che la lineare A, la più antica scrittura scoperta nella Creta minoica, tuttora indecifrata, possa essere uno sviluppo posteriore di questa preesistente tradizione di scrittura neolitica e non, come si riteneva finora, un prestito delle popolazioni con cui i cretesi commerciavano in Asia Minore e in Egitto. Una nuova idea del passato. Tutte queste informazioni sul nostro passato perduto scatenano inevitabilmente nelle nostre menti un conflitto tra vecchio e nuovo. La vecchia concezione era che i primi rapporti di parentela e in seguito economici dell'essere umano fossero stati sviluppati da uomini che cacciavano e uccidevano. La nuova idea è che le fondamenta dell'organizzazione sociale furono poste da madri e dalla prole che condividevano. La vecchia concezione della preistoria era quella di una storia dell'uomo cacciatore guerriero. La nuova idea è quella di uomini e donne che utilizzavano concordemente le nostre capacità uniche di sostenere e migliorare la vita. Così come alcune delle società più primitive, tra virgolette, esistenti, per esempio i Bambuti e i Kung, non sono costituite da cavernicoli bellicosi che vanno in giro trascinando donne per i capelli, risulta ormai evidente che il Paleolitico fu un'epoca straordinariamente pacifica. E proprio come Heinrich e Sophia Schliemann sfidarono le istituzioni scientifiche del loro tempo e provarono che la città di Troia non era una fantasia di Omero, ma una realtà preistorica, le nuove scoperte archeologiche confermano le leggende di un'epoca lontana. Prima che un dio maschile decretasse l'eterna sottomissione della donna all'uomo, un'epoca in cui l'umanità viveva in pace e nell'abbondanza. Insomma, secondo la nuova concezione dell'evoluzione culturale, il dominio maschile, la violenza maschile e l'autoritarismo non sono inevitabili, fissati per l'eternità. Un mondo pacifico e più egualitario non è soltanto un sogno utopistico, è una possibilità reale per il nostro futuro. Ma da queste società che adoravano la dea non abbiamo ereditato solamente l'affascinante ricordo di un'epoca in cui l'albero della vita e l'albero della conoscenza erano ancora considerati doni di madre natura, destinati tanto alle donne quanto agli uomini. Come abbiamo visto, da queste prime società di tipo mutuale abbiamo ereditato le tecnologie fondamentali grazie alle quali si è costruita tutta la successiva civiltà. Stupefacente! Se paragonato al nostro mondo attuale, è il fatto che in queste società mutuali della preistoria i progressi tecnologici servivano principalmente a rendere la vita più piacevole anziché a dominare e a distruggere. Questo ci riporta alla fondamentale diversità dell'evoluzione culturale in una società mutuale rispetto a una società dominatore. Ci spinge anche a concludere che, da questo importante punto di vista, le nostre antiche società mutuali meno avanzate tecnologicamente e socialmente, erano più evolute di quelle altamente tecnologiche del mondo contemporaneo, in cui milioni di bambini sono condannati a morire di fame ogni anno, mentre vengono gettati miliardi di dollari in mezzi di sterminio sempre più sofisticati. Da questa prospettiva, la ricerca contemporanea di un'antica spiritualità perduta può essere considerata sotto una luce nuova ed estremamente proficua. In sostanza, la ricerca di una saggezza mistica appartenente al passato che oggi tante persone perseguono è la ricerca del tipo di spiritualità caratteristico di una società a modello mutuale e non dominatore. Sia le testimonianze archeologiche che quelle mitologiche indicano che forse il miglior pregio della mente predominatore era quello di riconoscere la nostra unità con la natura tutta, punto essenziale del culto della dea nel Neolitico e a Creta. L'opera di ecologisti ed ecologiste contemporanee indica sempre più che questo antico atteggiamento mentale al giorno d'oggi, spesso associato a certi tipi di spiritualità orientale, era molto più evoluto rispetto all'attuale ideologia di distruzione dell'ambiente. In effetti, esso prefigura le nuove teorie scientifiche per cui tutte le forme di vita sulla Terra, insieme all'atmosfera, agli oceani e al suolo, formano un sistema vitale complesso e interdipendente. Molto appropriatamente, James Lovelock e Lynn Margulis hanno dato a questa ipotesi il nome di Gaia, uno degli antichi nomi greci della dea. E anche il fatto che l'antica società considerasse i poteri che governano l'universo come quelli di una madre che dona e nutre è più rassicurante psicologicamente, induce meno ansia e tensione sociale rispetto all'idea di divinità maschili punitive che ossessiona tuttora buona parte del globo. Infatti la tenacia con cui per millenni di storia occidentale uomini e donne si sono aggrappati alla venerazione di una madre compassionevole e misericordiosa, la Vergine Maria del Cristianesimo, rivela il bisogno che hanno gli esseri umani di una tale immagine rassicurante. Comunque, come molti altri aspetti della storia che diversamente apparirebbero sconcertanti, questa tenacia risulta comprensibile soltanto in base a quanto ora conosciamo della tradizione millenaria del culto della dea nella preistoria. Ma proprio perché questa nuova conoscenza del corso originale della nostra evoluzione culturale getta una luce così diversa sul nostro passato e sul nostro possibile futuro, è tanto difficile occuparsene. E poiché essa costituisce una notevole minaccia per il sistema dominante, si attuano sforzi massicci per nasconderla. Il campo di studi che oggi mette a nostra disposizione i ritrovamenti archeologici di cui abbiamo riferito offre numerosi esempi delle dinamiche di soppressione dell'informazione in atto in una società dominatore. È rivelatore il modo in cui fu ordinato a James Mellart di interrompere gli scavi nel sito neolitico di Hashilar, anche se non erano ancora stati raggiunti gli strati più profondi e antichi, perché ulteriori lavori sul sito produrrebbero soltanto risultati scontati di scarso valore scientifico, così gli fu detto. La decisione fu presa nonostante le proteste di Mellart. Questo anche se all'epoca le parti esterne del tumulo, compresi i cimiteri che lo circondavano, solitamente fonte dei dati archeologici più ricchi nella maggior parte degli scavi, non erano ancora state esplorate. Ma senza un ulteriore aiuto finanziario o istituzionale, gli scavi si dovettero interrompere. Da allora il sito è stato saccheggiato senza alcun criterio scientifico dai cacciatori di tesori ed è ormai privo di un qualsiasi interesse archeologico. Senza dubbio anche altri fattori contribuirono alla chiusura prematura di questi importanti scavi archeologici, decisione che Mellart definì uno dei capitoli più tragici nella storia dell'archeologia. Ma rimane l'interrogativo di quanto questa decisione sia stata causata dall'affiorare della consapevolezza che dietro all'attività artistica cospicua e diversificata di Hassler c'era, scrive Mellart, un'unica e potente forza di ispirazione, l'antica religione dell'Anatolia, il culto della grande dea. Come vedremo anche nei capitoli seguenti, gli sforzi degli intellettuali per conformare la realtà a una visione del mondo di tipo dominatore iniziano fin dalla preistoria. Sicuramente lo strumento principale del drammatico mutamento della nostra evoluzione culturale fu la spada, ma ve ne fu un altro che alla lunga si è rivelato persino più potente. È l'attrezzo dello scriba e dello studioso, la penna o lo stilo per incidere le parole sulle tavolette. soprattutto nella nostra epoca, mentre cerchiamo di costruire una società pacifica, è illuminante sapere che la penna può essere potente come la spada. Infatti, alla fine, questo strumento apparentemente insignificante avrebbe letteralmente capovolto la realtà.